Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. 1 milione di senza tetto in Nepal per il terremoto, ancora incertezza sulla sorte di una quarantina di italiani. Temiamo 10.000 vittime, dice il Premier. Sulla legge elettorale inizia l'esame delle questioni pregiudiziali. Serracchiani del PD a Radio 24. La fiducia si valuterà dopo la giornata di oggi, pronti a salire al Quirinale. I macchinisti del CUB fermano la metropolitana di Milano per uno sciopero. La protesta è contro i nuovi turni e le nuove regole per le ferie previste per Expo. Indetto il coprifuoco, è dichiarato lo stato d'emergenza a Baltimora dopo gli scontri di questa notte al termine dei funerali di un afroamericano ucciso da un poliziotto. 15 gli agenti feriti. Il Carpi si prepara a festeggiare, basta un pareggio questa sera con il Bari per assicurarsi la Serie A. E per il Milan è il giorno delle trattative tra Berlusconi e Mister B per la vendita. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. I nostri contatti, effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra pagina sul sito di Radio 24, www.radio24.it, e poi durante la diretta il numero di SMS, il 349-238-6666. In apertura torniamo in Nepal, tutti gli aggiornamenti da Valentina Furlanetto. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno. In effetti sale di ora in ora purtroppo il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto, sono 4.484, secondo l'ultimo aggiornamento del Ministero dell'Interno nepalese i feriti sarebbero 8.200, ma il premier nepalese Koirala oggi ha detto che le vittime alla fine potrebbero arrivare a 10.000. Intanto continuano le scosse di assestamento, come conferma la volontaria Aibia Kathmandu Fulvia Clerici. Sentiamo. Anche oggi comunque andando in giro ti tremava la terra un pochettino sotto i piedi, no? La difficoltà in questo momento è raggiungere proprio gli edifici, perché il centro si trova sulla strada dopo l'aeroporto e lì c'è stato un grossissimo buco che si è aperto nella strada. Il problema è che non c'è fornitura di elettricità, non c'è un sacco di cose, poi c'è la gente che è in strada disperata, diciamo, a cercare batterie o cose di questo genere. Se si va in giro comunque per Kathmandu, c'è tutta la gente riversa in strada, dorme fuori. Tra le vittime anche 4 italiani, mentre nella notte sono stati rintracciati 18 connazionali e 40 sono ancora gli irrintracciabili. Alle pendici dell'Himalaya si trovano ancora 5 alpinisti italiani. Il capo spedizione Mario Vielmo. Abbiamo trascorso la notte qui nel laboratorio Piramide del CNR. Adesso stiamo organizzando un po' il recupero del materiale che abbiamo a campo base. Domani scenderemo ancora a valle e speriamo appunto di riuscire a prendere il primo aereo per Kathmandu e poi rientrare in Italia. E il sisma ha avuto anche altro tipo di conseguenze. Il terremoto ha spostato il terreno sotto l'area di Kathmandu fino a 3 metri verso sud. La conferma arriva da Stefano Gresta, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Per terremoti di magnitudo 8 ci sono spostamenti reali che restano permanenti dell'ordine dei metri. È ragionevole che da misure di deformazioni del suolo da satellite si sia fatta questa stima. E grazie Valentina Furlanetto per questi aggiornamenti. Più avanti ci collegheremo col capo dell'unità di crisi della Farnesina per capire esattamente qual è la situazione degli italiani, quanti sono stati rintracciati, quanti ne mancano all'appello. Adesso andiamo però a sentire cosa sta succedendo alla Camera, dove sono iniziate le votazioni sulle questioni pregiudiziali sulla legge elettorale, tra tensioni per le quali viene addirittura evocata la caduta del governo. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Italicum, che tra pochi minuti affronterà il nodo rappresentato dalle votazioni sulle pregiudiziali di costituzionalità e di merito presentate dalle opposizioni sulla legge elettorale. Pochi minuti fa il via libera alle pregiudiziali sull'Election Day. Votazioni dedicate e delicate, visto che due di queste, quelle che si terranno tra breve, si terranno a scrutinio segreto. Se le pregiudiziali fossero approvate vi sarebbe di fatto l'affossamento dell'Italicum. Occhi puntati allora non tanto sulle opposizioni, scontato il loro no, quanto sul Partito Democratico. Mattinata di febbrili contatti per richiamare alla causa i dissidenti della minoranza. Sul piatto, come anticipato ieri anche dal ministro delle riforme Boschi, vi sarebbe una sorta di compensazione e di apertura sulle riforme costituzionali in cambio del via libera alla legge elettorale. Tutto resta comunque incerto dal voto. Ripetono però i renziani, dipende il futuro dello stesso governo. Lo ha ribadito anche la vice segretaria del PD Serracchiani, intervenuta a Radio 24. Sentiamo. Noi ci siamo impegnati a fare le riforme, se non riusciamo a farle è giusto anche che andiamo dal Presidente della Repubblica a dire quali sono qual è la situazione, insomma credo che il Presidente del Consiglio l'abbia detto con chiarezza, abbiamo impostato tante riforme, alcune siamo riusciti già a definirle, altre sono addirittura d'arrivo, la riforma elettorale abbiamo sempre detto che era una delle più importanti, è chiaro che insomma non solo è in ballo la dignità del Partito Democratico ma anche la tenuta del governo. Così dunque la Serracchiani che non esclude il ricorso alla fiducia, no abbiamo detto dalle opposizioni, anche da Forza Italia, ha ricordato Brunetta che si è detto certo del no, anche di Verdini. È tutto, linea allo studio. E grazie al nostro Vincenzo Miglietta, noi torniamo all'estero per la nota di scontri a Baltimora dopo i funerali di un ragazzo di colore. Noi ci colleghiamo con gli Stati Uniti e con Mario Platero. Mario, buongiorno. Simone, buongiorno. Beh, devo dire, è stata una notte tremenda quella che Baltimora ha passato dopo i funerali di Freddie Gray. Insomma, la città è stata a ferro e fuoco, avrete visto notizie d'agenzia. E qual è la storia? È la solita storia di intolleranza razziale. Freddie è un giovane di 25 anni, un afroamericano che era stato arrestato in buona salute, sottolineiamo, e senza che avesse tra l'altro commesso alcun crimine lo scorso 19 di aprile. Lo hanno arrestato, la storia dice che c'è stato uno scambio di sguardi tra lui e un poliziotto e poi Gray, come dire, si è sentito imbarazzato ed è scappato. Il poliziotto l'ha inseguito e l'ha arrestato, ma senza che ci fosse un vero e proprio crimine. Insomma, lo hanno portato in caserma e dopodiché il giovane è morto ed è morto per contusioni alla spina dorsale. È una morte misteriosa perché non ci sono state spiegazioni ufficiali. Lì per lì, devo dire, Baltimora ha retto bene, il capo della polizia è intervenuto, il sindaco è intervenuto, hanno cercato di mantenere la calma e non è successo nulla. Però poi ieri ci sono stati i funerali e quindi la protesta si è fatta a un certo punto molto aggressiva, soprattutto nella notte. Ci sono stati incendi, attacchi alla polizia. La polizia che era in assetto di guerra, tra l'altro ci sono stati una ventina di poliziotti feriti, a quel punto è intervenuto il governatore, non era più un problema del sindaco, che ha ordinato il coprifuoco, ha mobilitato la Guardia Nazionale, insomma siamo soltanto all'ultimo episodio di questa protesta razziale americana che era esplosa a Ferguson l'estate scorsa, protesta razziale che poi si è estesa in Ohio, si è estesa a New York, a Staten Island, insomma di cui ho raccontato a più riprese. Comunque la situazione in Maryland in questo momento è in evoluzione, c'è più calma dopo il coprifuoco e direi per ora esaurisco la questione qui, per cui ad America 24 poi fra poco parlerò di un argomento diverso, tra l'altro che è il centenario della nascita di Frank Sinatra, quindi cambieremo argomento. A te la linea, Simone. Grazie. Grazie. Grazie a Mario Platero che dunque ritroveremo alle 13:45. Mancano tre giorni all'avvio di Expo. Oggi è una giornata difficile per Milano, nella quale è in corso uno sciopero che sta di fatto fermando la metropolitana dalle 8:45 fino alle 15. Alle 15 riprenderà il servizio. A protestare è il sindacato CUB contro l'accordo stilato dagli altri sindacati e firmato dagli altri sindacati proprio in merito alla turnazione, alle nuove regole per le ferie che riguarderanno i sei mesi di Expo. Più avanti cercheremo di collegarci con un sindacalista del CUB per capire esattamente per quale motivo protestano. Intanto però andiamo alla giornata di oggi che ha visto una sorta di presentazione ufficiale della cosiddetta Carta di Milano. Ci facciamo spiegare cos'è da Laura Bettini che ha seguito questa cerimonia, così possiamo definirla, alla quale ha partecipato anche il ministro Martina. Laura, buongiorno. Buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Questa famosa Carta di Milano, una prima lettura e alla presentazione risulta molto interessante, è nata sotto l'egida del Ministero delle Politiche Agricole, lo anticipavi tu, ma anche con un grande sforzo nazionale di università, di organizzazioni, di enti no profit. E io vi leggo l'inizio, l'incipit, giusto per chiarire qual è il contesto. Si legge: noi donne e uomini, cittadini di questo pianeta, sottoscriviamo questo documento per assumerci impegni precisi in relazione al diritto al cibo, cibo, che riteniamo debba essere considerato un diritto umano fondamentale, ed è questo il perno su cui poi dopo ruota tutta la carta, che è composta da diversi paragrafi anche molto precisi. Sono quattro gli indirizzi: si parla di cibo, si parla di energia, di identità dinamiche della convivenza, e quindi si toccano indirettamente tutti i temi della giustizia globale, si parla anche di uguaglianza di genere, qui di istruzione, di educazione. È un documento di intenti che verrà sottoposto all'attenzione prima di tutto dei visitatori dell'Expo, che lo firmeranno se lo condivideranno, e per visitatori si intende sia i cittadini che le aziende, le istituzioni, gli stati, e poi verrà presentato all'ONU, quindi un documento che parte dal basso in stile XXI secolo, ma che vuole diventare una specie di protocollo di Kyoto dell'alimentazione riferito appunto ai nostri tempi, un documento che può essere quindi un formidabile lancio politico però per l'Italia, e questo è quello che ha voluto rimarcare il ministro Martina proprio qui in questa giornata. Sentiamo. Qui noi misuriamo l'ambizione politica di Expo e dell'Italia, perché la carta è un formidabile strumento di diplomazia dell'Expo. È un lascito per il futuro immateriale, ma significativo, è stato detto oggi, come la Torre Eiffel lo è stato, no? Dopo l'Expo a Parigi. Simone. Grazie Laura Bettini, si è parlato anche dello stato dei lavori, sarà tutto pronto il 1° maggio, ha detto Sala. Anna Marino, buongiorno. Sì Simone, ce la conferma ancora una volta che i lavori saranno finiti entro il 1° maggio, ci arriveremo all'ultimo minuto, ammette il commissario unico all'Expo 2015 Giuseppe Sala, sentiamo le sue parole. Ha affermato che il 1° maggio appunto tutti i padiglioni saranno aperti, vedremo il Nepal, ma sicuramente... Allora Anna, aspetta, ti fermo perché forse abbiamo pronto il file, lo possiamo far sentire? Perfetto. Via. Con la pioggia di ieri non abbiamo potuto fare le ultime asfaltature, ma più che le asfaltature, le colorature finali di Cardo e Documano, domani pulizie finali. E il giorno 30 il sito sarà aperto solamente la mattina, perché pomeriggio ci saranno gli ultimi, tutti i test tecnologici, i controlli di polizia, e quindi dal 30 all'ora di pranzo il sito sarà sostanzialmente vuoto. Quindi ci arriveremo come immaginavamo all'ultimo momento. Certo, quindi dal 30 ora di pranzo il sito sarà finito, ha precisato riguardo al Nepal che il padiglione sarà visitabile sicuramente, poi ha affermato che ci tiene che il Presidente del Consiglio faccia una visita, ha precisato anche che ci sono solo 3 nepalesi rimasti e sono stati ovviamente sostituiti da dei bergamaschi, dei bresciani e degli operai, perché ci sono stati dei lutti in famiglia. Ma per quanto riguarda la cerimonia sarà sobria, dice ci saranno per 15-20 capi di Stato, per esempio il Presidente del Gabon, del Ghana, Fabius, il ministro francese, domani nomi. Nessun ingorgo per il 1° maggio, comunque 10 milioni di biglietti che sono stati venduti, ma stanno aumentando perché fino al 30 c'è lo sconto appunto del 30%. Si sofferma anche sulla questione manpower, Sara, e sottolinea che i sindacati hanno affermato che la gestione Expo è stata cristallina. L'accusa dei sindacati è più rivolta ai paesi, e proprio in questo momento scoppia una piccola protesta che però arriva fin dentro la statale di Milano, fuori un gazebo, e qui un'incursione di due ragazzi con un manifesto No Expo che sollevano la questione degli incidenti sul lavoro in cantiere e la richiesta di fondi per la cultura invece che per l'evento. Per ora è tutto, Simone. Grazie Anna Marino, vi do un breve aggiornamento intanto sul Nepal, visto che se ne accennava anche nella diretta di Anna Marino. Sono dichiarazioni che arrivano dal ministro degli esteri Paolo Gentiloni: ci sono 39 italiani che ancora non sono stati rintracciati, ma questo non vuol dire, dice, che siano dispersi. La situazione è complicata e confusa, finora sono stati ritrovati 347 appunto connazionali, tra cui purtroppo le 4 persone che hanno perso la vita. Torniamo anche oggi sulle infinite vicende della Grecia. Il ministro Varoufakis è stato sostanzialmente commissariato, come il nostro Vittorio Darold, collega del Sole 24 Ore, già anticipava qualche giorno fa, insomma era nell'aria che potesse succedere. Vittorio, buongiorno. Buongiorno, sì, assolutamente. Dopo la situazione, lo scontro verbale molto forte che si era prodotto al vertice di Riga venerdì scorso, dove 18 ministri delle finanze si erano schierate contro appunto Varoufakis, la situazione era diventata veramente insostenibile. Quindi Tsipras ha dovuto intervenire, ha nominato Euclid Sakalotos, che è un moderato viceministro degli esteri più gradito alla BCE, alla UE, al Fondo Monetario, che sta già lavorando e probabilmente già questa sera preparerà una legge su alcune riforme, sulla famosa lista da presentare a Bruxelles, e speriamo che siano appunto delle situazioni molto più accettabili. Grazie Vittorio anche per oggi per questo aggiornamento, vedremo come evolverà la vicenda greca. Molte altre cose di cui parlare tra poco, innanzitutto come vi dicevo il collegamento con l'unità di crisi della Farnesina per capire qual è la situazione dei nostri connazionali in Nepal. Ci occuperemo anche della vicenda dell'uomo che a Genova si è tolto la vita scrivendo che la magistratura è stata miope dopo l'arresto del figlio. Parleremo anche di calcio, del Carpi, ve lo dicevamo nei titoli, che questa sera potrebbe festeggiare l'ingresso in Serie A, ma prima il traffico. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Un milione di senza tetto in Nepal per il terremoto, ancora incertezza sulla sorte di 39 italiani che non sono però al momento tecnicamente dispersi, dice il ministro Gentiloni. Temiamo 10.000 vittime, dice il premier nepalese. Legge elettorale, inizia l'esame delle questioni pregiudiziali, Serracchiani del PD a Radio 24, la fiducia si valuterà dopo la giornata di oggi. Macchinisti del CUB fermano la metropolitana di Milano per uno sciopero, protesta contro i nuovi turni e le nuove regole per le ferie previste per Expo. Detto il coprifuoco, è dichiarato lo stato di emergenza a Baltimora dopo gli scontri di questa notte al termine dei funerali di un afroamericano morto dopo essere stato arrestato. E parliamo di corruzione, c'è una maxi operazione in Sardegna, sono stati arrestati 5 sindaci. Una cupola degli appalti anche in Sardegna, a farne parte sindaci di diversi paesi, ma anche i loro vice, tecnici comunali e professionisti. Un'associazione a delinquere ramificata in tutta l'isola e finalizzata al controllo dell'aggiudicazione di appalti pubblici, individuata dalla Guardia di Finanza di Oristano e dai Carabinieri di Tonara, che da stamattina sono impegnati nell'esecuzione di 24 misure cautelari e numerose perquisizioni. Alcune persone vengono condotte in carcere, per altre sono stati disposti gli arresti domiciliari. La rete, che mirava a spartirsi gli incarichi per la progettazione di opere pubbliche, nel corso degli anni ha gestito affari in tutti gli angoli dell'isola, dal Nuorese al Sulcis, passando per il Cagliaritano e la Baronia. Tra i comuni interessati, oltre a Nuoro e Cagliari, Belvì, Arizzo, Quarto Sant'Elena, San Vito, Sant'Antioco, Posada. I lavori venivano affidati quasi sempre alle stesse ditte e chi riusciva a pilotare le pratiche e assegnare gli incarichi riceveva sempre premi consistenti. Non mazzette ma favori, lavori gratuiti e altri benefici. Per tutti gli indagati l'accusa è quella di associazione a delinquere finalizzata alla giudicazione di appalti pubblici. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo allo sport e al calcio ora, tra un attimo verremo a quello giocato, a quello di trattative per la vendita, però iniziamo dalla cronaca e dal fatto che si è costituito ieri l'uomo che sarebbe al centro dello scandalo calcio scommesse, l'uomo detto lo Zingaro. Dopo quasi 4 anni di latitanza ha deciso di costituirsi. Le forze dell'ordine lo hanno preso in consegna ieri pomeriggio nell'aeroporto di Orio al Serio, dove era arrivato con un volo proveniente dal Montenegro. Conosciuto come lo sfregiato, il macedone Christian Ilievski era a capo del gruppo di zingari che avrebbero corrotto giocatori di Serie A e B. L'uomo aveva rapporti diretti con Tan Set Eng, il singaporiano a capo dell'organizzazione internazionale che, secondo la procura di Cremona, avrebbe alterato i risultati di diversi incontri sportivi. Accusato di associazione a delinquere finalizzata alla frode sportiva, Ilievski era ricercato dal giugno del 2011. Trasferito nel carcere di Cremona, già oggi lo sfregiato verrà interrogato dal GIP e la sua decisione di collaborare con la giustizia potrebbe portare a nuovi clamorosi sviluppi nell'inchiesta sul calcio scommesse, che vede coinvolti anche giocatori di primo piano come il laziale Stefano Mauri, che si è sempre dichiarato innocente. Andrea Viali, Radio 24. 4, il Sole 24 Ore. Siamo al calcio giocato e soprattutto ad una squadra che fa sognare una piccola città, Carlo Genta, il Carpi, già questa sera potrebbe passare in Serie A, diciamo così. Ti puoi immaginare quale sarà l'ironia nei confronti di Lotito e di quella famosa intercettazione. Però al Carpi manca un punto, gioca in casa con il Bari. Beh, scontata la promozione del Carpi, così come lo scudetto della Juventus, non ci sono grosse differenze. Ha dominato il campionato di Serie B, adesso siamo al momento della festa, salvo braccino tennistico. Il Carpi festeggerà questa notte la promozione in Serie A, poi ovviamente gli abitanti di Carpi faranno tutti gli scongiuri che vogliono. Dicevi anche di calcio comprato. Perché oggi è oggi, domani, vediamo, questi sono giorni determinanti per la cessione del Milan. Abbiamo visto tutti ovunque le foto di questo Mr. B, che è l'interlocutore privilegiato di Silvio Berlusconi. È previsto un incontro, doveva essere stasera, forse sarà domani. Dicono che Mr. B abbia fatto le valigie dall'albergo in Piazza del Duomo, sia andato a Ginevra a fare una gita. Non è chiaro, il fatto è che Berlusconi comunque ha annullato i suoi impegni romani e rimane ad Arcore. Questo incontro ci sarà e fonti molto accreditate dicono che siamo davvero alla trattativa conclusiva, tanto che ben presto potrebbe addirittura esserci un annuncio ufficiale. Quindi non resta che aspettare, oggi, domani, vediamo. Questione di ore. Grazie a Carlo Genta. Noi torniamo sulle vicende del Nepal adesso. Arriva adesso notizia dalla FAZ, la Frankfurter Allgemeine Zeitung, che sono 150 i turisti tedeschi dispersi in Nepal. Le cifre sono riferite dall'ambasciata tedesca a Kathmandu. Parliamo invece dei nostri connazionali con Claudio Taffuri, che è a capo dell'unità di crisi della Farnesina. Buongiorno Taffuri e benvenuto. Buongiorno. Allora, il quadro, tra l'altro, visto, l'ha fornito poco fa lo stesso ministro Gentiloni, sono 39 gli italiani dei quali non si hanno notizie e che però non vuol dire che siano dispersi. Ci spiega che cosa significa esattamente? Esatto, quella precisazione è necessaria. Noi siamo partiti da 8 soli connazionali registrati nei nostri siti, siamo arrivati, come ha saputo, oltre 350 italiani individuati in Nepal, in sani e salvi, fortunatamente solo 4 lievi feriti. Ci sono una quarantina di nominativi che però ci sono stati segnalati come presenza in Nepal e con i quali non siamo ancora entrati in contatto. Però guardi, questo è un numero che può, e auspico fortemente, possa cambiare nei prossimi minuti, se vogliamo, nelle prossime ore, perché devi immaginare che ci sono persone sicuramente ancora che sono in zone, diciamo, decentrate rispetto a Kabul, rispetto a Kathmandu, e sono in condizioni magari precarie, non possono usare elettricità, non hanno più il telefono. Quindi è un numero di persone sulle quali concentriamo, la ricerca, perché certo. Il punto è, Taffuri, mi scusi, è che molto semplicemente queste persone, ed è quello che auspichiamo tutti quanti, semplicemente non siano in grado di mettersi in comunicazione con chi che sia. Certamente, questo è l'ipotesi sulla quale dobbiamo lavorare, poi vedremo nella realtà come si tradurrà questo numero, ma voglio dire, questo numero è sceso in questi 2 giorni, era molto più alto, siamo poi riusciti a rintracciare oppure abbiamo avuto notizie indirette di contatti e quindi è arrivato ad essere quello che lei diceva, ma è un numero che può e auspico cambi nel prossimo futuro. Senta, nel frattempo la vostra missione è arrivata a Kathmandu, la missione della Farnesina. Come stanno operando i vostri uomini sul territorio? I uomini sono andati assieme ad una componente della protezione civile che si occupa poi in realtà della parte di assistenza alle popolazioni, ma collabora con noi. I nostri stanno facendo sostanzialmente due cose. Uno, stanno verificando i posti, diciamo, di salute, gli ospedali, per vedere se ci fosse qualche italiano, per esempio, ricoverato, portato lì e che non è stato in grado di segnalare la sua presenza. Stanno coordinando gli italiani in vista di 2 velivoli, che uno arriverà questa notte, verosimilmente, sperando che le condizioni meteo lo consentano, la congestione di quel piccolo aeroporto anche, per recuperare una prima aliquota di connazionali. A seguire poi organizzeremo degli altri voli, secondo la priorità anche che ci verrà segnalata dal terreno, per riportare indietro i nostri italiani. Entro quanto prevede che si possano riportare tutti in Italia i nostri connazionali? E ammettendo che non ci siano problemi del tipo che le ho segnalato prima, già da domani mattina i primi gruppi potrebbero rientrare in Italia. Devono fare uno scalo a Delhi, poi da lì verranno imbarcati su dei voli, un volo diretto potrà andare già domani. Sono diciamo, un'organizzazione legata alle possibilità reali che incontriamo sul terreno. La ringrazio, grazie a Claudio Tafuri, capo dell'unità di crisi della Farnesina, e naturalmente buon lavoro e buon lavoro alla vostra equipe sul terreno a Kathmandu. Ci fermiamo, ci ritroviamo per la borsa subito dopo, poi ci occuperemo della vicenda, ve lo accennavamo poco fa, del medico genovese che si è tolto la vita scrivendo magistratura miope a proposito dell'arresto del figlio. C'è stata una risposta del PM che è stata oggettivamente molto pesante, ha detto dicono tutti così, cercheremo di parlarne se riusciamo a raggiungere col sottosegretario della giustizia tra poco. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. In Nepal 39 italiani di cui non si hanno notizie, ma non sono dispersi, 1 milione i senza tetto, forse 10.000 le vittime secondo il premier nepalese. Inizia l'esame della legge elettorale, inizia l'esame delle questioni pregiudiziali, si deciderà se mettere la fiducia dopo la giornata di oggi, dice Serracchiani a Radio 24. Ferma la metropolitana di Milano per uno sciopero del CUB che protesta contro i nuovi turni e le nuove regole per le ferie previste per Expo. Detto il coprifuoco, è dichiarato lo stato d'emergenza a Baltimora dopo gli scontri di questa notte. Maxi operazione contro la corruzione in Sardegna, arrestati 5 sindaci. La borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Torna da noi Cosimo Maria Ferri, sottosegretario alla giustizia, buongiorno, bentornato. Buongiorno a tutti voi, a chi ci ascolta. Con lei vogliamo parlare di una vicenda, abbiamo dato ieri con i nostri ascoltatori la notizia in breve, la notizia è questa, un medico, un pediatra di Genova si è tolto la vita gettandosi da un ponte appunto a Genova, dopo che era caduto in una sorta di depressione a causa del fatto che avevano arrestato il figlio farmacista, arrestato per un traffico di farmaci dalla Procura di Monza, in un'inchiesta della Procura di Monza. Il punto qual è? Il punto è che quest'uomo ha scritto la magistratura miope a volte uccide. E qual è l'altro punto? Che è arrivata una sorta di replica del procuratore di Monza che ha detto dicono tutti così, una frase che ha indignato molti. Lei come la vede? Ma intanto io voglio mostrare la mia vicinanza e unirmi al dolore della vedova, della signora che oggi vede un marito andarsene via in questo modo, e quindi questi sono gesti che insomma ti lasciano davvero, non solo ti rattristano ma ti fanno pensare. Sì, la stessa quindi, signora avrebbe tentato il suicidio per essere appunto, poi salvata, infatti, per essere salvata dalla polizia. Esatto, è chiaro che insomma io anche per la mia esperienza da magistrato occorre sempre capire che dietro un fascicolo c'è sempre un uomo, c'è sempre una famiglia, c'è sempre una persona, è giusto andare avanti e chiaramente perseguire i reati, fare giustizia, perché i magistrati sono pagati per fare giustizia e quindi fare il loro dovere, e quindi ci vuole sempre grande professionalità e serietà, come sicuramente sarà in questo caso. Io non conosco gli atti d'indagine e quindi non parlo mai dei processi in corso e non entro nel merito, però dietro ogni storia processuale sì, c'è l'umanità, c'è l'uomo, questo e sicuramente. Quindi di fronte a questi gesti è chiaro che ci vuole grande rispetto. Io personalmente mi sento. Quindi ha sbagliato, Ferri, mi scusi, quindi ha sbagliato il procuratore di Monza nel reagire in questo modo alla frase scritta da quest'uomo che si è tolto la vita? Io intanto non sono certo che abbia detto questa frase, perché chiaramente spero che la frase venga smentito, sia stata posta in altri termini. Personalmente io non l'avrei detta di fronte a una morte di un padre con il suicidio, avrei detto chiaramente grande rispetto, grande dolore, però chiaramente il ruolo del magistrato è quello di accertare la verità, e quindi uno deve andare avanti e farlo con serietà. Però un conto è fare il proprio dovere e quindi fare il magistrato e cercare la verità, l'altro siamo tutti uomini e quindi dobbiamo fermarci di fronte alle tragedie e portare grande rispetto, ecco. Quindi se la frase fosse stata detta, è chiaro, io non la condivido, ecco. La ringrazio, grazie a Cosimo Ferri, sottosegretario alla giustizia. Claudio Signore è il segretario del CUB Trasporti Milano, è un sindacato, è il sindacato che sta sostanzialmente oggi fermando la metropolitana di Milano. È una protesta contro un contratto sottoscritto dagli altri sindacati per Expo, che è un contratto che prevede una serie di regole speciali in questi sei mesi, tra cui delle regole particolari proprio per quanto riguarda per esempio le ferie o per quanto riguarda i turni. Io vorrei capire, signore, che non è un'esclamazione, è il cognome della persona che abbiamo al telefono, perché poteva suonare in questo modo. Vorrei capire per cosa protestate, qual è il problema? Allora, è stato siglato, come avete detto, questo accordo da sette sigle sindacali. Innanzitutto le modalità sono quelle che non è stato chiesto ai lavoratori di esprimersi a favore o contro, anzi la riserva è stata addirittura sciolta prima del termine delle assemblee, e queste sono le modalità. I contenuti sono sostanzialmente la sublimazione dello straordinario, cioè già con il servizio ordinario in ATM a Milano il servizio viene svolto col 30% di straordinario da parte del personale viaggiante. Per Expo ci viene ulteriormente chiesto di aumentare questa quota di straordinario, ci vengono chiesti 6 riposi in sabato e domenica, dobbiamo restituire questi 6 riposi, e per quanto riguarda, come ha detto, le ferie, noi già da tempo non andiamo in ferie proprio per questa carenza di personale. La media è che ogni lavoratore, ogni tranviere ha circa 50 giorni di ferie residue degli anni precedenti, sì, e compreso quest'anno, e non riesce a fare. Da noi vengono spesso anche negati i permessi per andare però, a però è vero anche, mi scusi, è vero anche che dall'accordo si prevedono delle nuove assunzioni, non è che rimanete con lo stesso organico in questo semestre, no? Sì, le assunzioni non si capisce come mai vengono assunte 80 persone nella Lilla, che è una metropolitana automatica, e quindi dovrebbe già prevedere meno personale perché non c'è quello di guida, e per il personale viaggiante di superficie vengono assunte 90 persone. Io le dico che nel mio deposito di Viale Sarta, che è il più grande, mancano circa 80 turni tutti i giorni senza Expo. Queste 90 assunzioni non coprono nemmeno il turnover delle persone che andranno in pensione di qui a 6 mesi. Quindi non si capisce come mai si assumono tra vigilanza e ausiliari della sosta 150 persone. Parliamoci chiaro, i cittadini di Milano hanno bisogno di trasporto, non hanno bisogno di ausiliari del traffico. Sì, sono 35 sulla linea M5, poi 26 macchinisti più altri 25 individuati attraverso selezione interna, quindi una cinquantina ce ne sono, e poi altre 200 assunzioni nei prossimi mesi, se non erro, no? Sì, ma di conducenti sono 90. Conducenti di superficie, di tram, bus e filovie, sono 90. Le ripeto, nel mio deposito dove lavoro tutti i giorni, mancano. E quindi a questo punto, signore, vorrei capire che cosa volete fare, perché la riflessione che fa qualche ascoltatore dice, insomma, però, dice, sono i sei mesi di Expo via così, insomma. Allora, i tranvieri fanno sacrifici dal 2009, è dal 2007 che non viene rinnovato il contratto nazionale, dal 2007. Insomma, era l'occasione per risolvere prima i problemi strutturali, poi in questo caso, come dice lei, Expo non sarebbe stato un sacrificio. Il problema è che i sacrifici li facciamo da tempo, è una categoria totalmente abbandonata a se stessa, sostanzialmente. La ringrazio, grazie. La devo fermare, Claudio Signore, segretario del CUB Trasporti di Milano. Magari nei prossimi giorni sentiremo anche la CGIL, che è uno dei firmatari invece di questo accordo. Io intanto saluto Nichi Vendola, presidente della Regione Puglia. Buongiorno e benvenuto. Allora, con lei vogliamo parlare delle decisioni che dovrebbero arrivare oggi dall'Europa, decisioni definitive a questo punto per quanto riguarda la vicenda degli ulivi affetti dalla xylella. Abbiamo letto di 1,5 milioni di piante abbattute, Vendola. Ma noi reagiremmo in maniera molto determinata se questa fosse la decisione, perché la xylella fastidiosa è una malattia ancora da indagare. Credo che siamo di fronte alla necessità di investire nella ricerca. Quello che disvela questo parassita, questo batterio da quarantena, è la fragilità della nostra agricoltura sottoposta all'infiacchimento determinato dall'abuso della chimica. Rivela anche il fatto che le frontiere del vecchio continente sono vulnerabili, vengono vulnerate, perché questo parassita è giunto dal Costa Rica, sì. Quindi vuol dire che non sono sufficienti i controlli. Ora noi siamo colpiti da questa malattia e saremmo anche colpiti da una decisione che non ha un fondamento scientifico, quale quella della eradicazione massiccia di decine di migliaia o addirittura di milioni di piante di ulivo. Questo è inaccettabile. Penso che se le piante sono malate e non c'è una cura, e il rischio è che si espanda ulteriormente, forse sarebbe anche nell'interesse di chi ha piante sane il fatto che queste piante vengano abbattute. Nella cosiddetta zona infetta ormai tutti sanno che è perfettamente inutile eradicare, questo lo sa anche Bruxelles, e infatti non ci chiede di eradicare attorno a Gallipoli o nella provincia di Lecce, ci chiede di eradicare in maniera massiccia nell'area Cuscinetto, cioè nella zona più a nord. Noi alcune piante malate, noi pensavamo che le piante malate, diciamo, nel territorio di confine potessero essere eradicate, ma se la decisione dice si eradica non solo la pianta malata, ma tutte le piante nel raggio di 300 metri, noi ci troviamo nell'area infetta di fronte a ulivi che stanno anche riprendendosi, che hanno ripreso a germogliare, che tornano a produrre olive. Allora, siccome la scienza è incerta, questa decisione rischierebbe di essere semplicemente un'ulteriore punizione. Al flagello della xylella si aggiungerebbe il flagello di una decisione incomprensibile e soprattutto rifiutata dalla popolazione. Senta Vendola, abbiamo veramente 30 secondi. Avete fatto un calcolo, secondo voi, di quante piante andrebbero eradicate secondo il vostro calcolo, cioè, e quindi senza tener conto, come dire, dell'area circostante la pianta malata? Ma io credo che bisogna venire qui e ascoltare anche le esperienze di chi dice: guarda, si stanno riprendendo alcuni uliveti. Bisogna sapere che se la procura di Lecce ha aperto un'indagine e se il TAR del Lazio ha bloccato il piano sulle eradicazioni, è proprio perché non c'è un fondamento scientifico che dica bisogna distruggere gli ulivi per bloccare l'infezione. Probabilmente la xylella è già in Europa, sappiamo che è in Francia, probabilmente in Germania, sicuramente in Corsica. Allora, attenzione a evitare che, a fronte di una grande inedita sfida in cui bisogna soprattutto finanziare la ricerca e ascoltare anche la competenza di chi ogni giorno li lavora e li ama, e forse evitare atteggiamenti burocratici. Benissimo, io la ringrazio, torneremo a sentire pareri sia vostri che di altri naturalmente nel momento nel quale arriverà la decisione europea, che dovrebbe essere in giornata. Traffico.